Noi a Torino la guerra non la volevamo più. Volevamo che tornassero i nostri soldati dal fronte e volevamo mangiare. In quel mese d'agosto, se in fabbrica si crepava di caldo, in casa si moriva di fame. Usciti dal lavoro si faceva la coda dal fornaio, ma il più delle volte il pane era finito. Così sempre più sovente si rientrava al lavoro gridando: "Sacco vuoto non sta in piedi e tantomeno può lavorare". Cominciarono le donne, che soffrivano più di qualsiasi altro per la fame e per la guerra. Quasi tutti adesso lavoravano in fabbrica. Bisognava dare da mangiare ai bambini mentre i mariti e i figli erano al fronte. Ma cosa dare da mangiare ai bambini se nelle botteghe non c'era pane? Il 21 agosto 1917, un martedì, il pane mancò completamente. I lavoratori usciti dalle fabbriche incontrarono davanti alle panetterie sbarrate le donne che, uscite dal turno in fabbrica, inutilmente facevano la coda da ore. Si cominciò a gridare: "Pane, sciopero, abbasso la guerra". I fornai erano piantonati, ma in un attimo i carabinieri furono travolti e contro le donne non osarono sparare. Porte saracinesche furono abbattute dalle donne, che presero d'assalto tutti i viveri a portata di mano. Nessuno quel giorno rientrò in fabbrica. Alcune direzioni di stabilimenti, alla Diatta e alla Proiettili, dove lavoravano solo donne, mandarono a prelevare camion di pane ai panifici militari. Ma quando i camion arrivarono, le donne li presero d'assalto, si distribuirono il pane e, invece di rientrare al lavoro, si diressero in città urlando: "Abbasso la guerra". Al pomeriggio tutte le fabbriche erano ferme, gli operai sapevano cosa rischiavano perché erano tutti militarizzati, potevano essere immediatamente spediti al fronte, se non deferiti davanti al tribunale militare. Ma le donne, che sapevano tutto questo, si misero davanti a loro. Cortei tumultuanti arrivarono in centro, le donne gridavano: "Al municipio, dal prefetto, nominiamo una commissione". Ma che commissione, abbasso la guerra. Così la mossa per il pane cominciò a trasformarsi in rivolta contro la guerra. Sorsero le prime barricate, furono rovesciati i tramvai e gli autocarri scaricati dal pane e della farina. Si udirono i primi colpi di arma da fuoco. Nessuno dormì quella notte. Al mattino del mercoledì la città era paralizzata dallo sciopero generale. Tutto rimase fermo, dalle fabbriche ai laboratori e dai negozi ai trasporti. Il fatto che lo sciopero totale continuasse e che un po' dovunque sorgessero le barricate, nonostante le cariche della cavalleria, spaventò le autorità. La reazione si scatenò. Allo scopo di disperdere la folla, la forza pubblica cominciò ad arrestare per le strade uomini e donne. Gli arrestati e le arrestate vennero picchiati ferocemente e trascinati sui camion. Poi l'autorità decise di intervenire con la truppa, fece occupare i punti strategici più importanti e arrivarono i carri armati. Ma appena apparvero i soldati, questi furono accolti dalla popolazione come fratelli. Le donne si infiltrarono tra loro offrendo cibo e vino. Era proprio per loro, dicevano le donne, proprio perché i soldati non andassero a morire in guerra che Torino era insorta. E ogni famiglia operaia, abitante delle strade presidiate dalla truppa, si occupò dei suoi soldati. Con la pasta asciutta li esortò a fraternizzare. Questo atteggiamento non tardò a portare certi frutti. Un reparto di alpini ricevette l'ordine di sparare, ma i soldati, dopo aver lungamente esitato di fronte alle donne, posarono i fucili a terra e voltarono le spalle alla folla. Ciò accadde sul corso di Ponte Mosca, alla barriera di Milano, e subito dopo il commissariato di polizia di quello stesso quartiere fu preso d'assalto ed espugnato dalla folla. Poi questa si dirise di corsa attraverso Porta Palazzo verso il centro della città per raggiungere Piazza Castello, dove c'era la prefettura, e Piazza San Carlo, dove c'era la questura, e a Via Cernaia, dove erano le caserme principali, ma non fu possibile. Il contrattacco fu tremendo. Contro i pochi fucili dei rivoltosi entrarono in azione le mitragliatrici e i carri armati, che cominciarono a vomitare fuoco tanto su chi fuggiva quanto su chi restava, e contro le finestre delle case, contro i negozi, contro tutto. Caddero donne, uomini e perfino bambini. Ma la lotta non cessò. Continuò lo sciopero e continuavano a sorgere barricate. Dalle memorie di Teresa Noce, partigiana e combattente, all'epoca dei fatti diciassettenne.